Capitolo 93esimo. Catreo e Altemene. Catreo, il maggiore dei figli superstiti di Minosse, ebbe tre figlie, Erope, Climene e Apemosine, e un figlio, Altemene. Quando un oracolo predisse che Catreo sarebbe stato ucciso da uno dei propri figli, Altemene e la pie veloce Apemosine lasciarono piamente Creta con largo seguito nella speranza di sfuggire alla maledizione. Approdarono all'isola di Rodi e fondarono la città di Cretinia, così chiamata in onore della loro isola nativa. Altemene in seguito si stabilì a Camiro, dove fu tenuto in grande onore dagli abitanti della città e innalzò un altare a Zeus sul vicino monte Atabirio, dalla sommità del quale, nei giorni limpidi, poteva scorgere lontano il profilo dell'amata Creta. Attorno a quest'altare egli dispose un gruppo di tori di bronzo che muggivano ogni qualvolta un pericolo minacciava Rodi. Un giorno Ermete si innamorò di Apemosine, che respinse le sue proposte e fuggì. La sera stessa il dio la sorprese presso una fonte. Di nuovo essa cercò di fuggire, ma Ermete aveva steso delle pelli scivolose sul sentiero e quando Apemosine cadde, riuscì a violentarla. Allorché Apemosine ritornò al palazzo e narrò l'accaduto al fratello, Altemene gridò «Bugiarda e sgualdrina!» e la uccise a furia di calci. Frattanto Catreo, che non si fidava delle sue due altre figlie Erope e Climene, le scacciò da Creta, di cui era divenuto re. Erope, dopo essere stata sedotta da Tieste il Pelopide, sposò Plistene, che la rese madre di Agamennone e Menelao. E Climene sposò Nauplio, il famoso navigatore. Infine, giunto ormai a tarda età e senza eredi al trono, Catreo andò in cerca di Altemene, che amava teneramente. Sbarcato una notte a Rodi, egli e i suoi compagni furono scambiati per pirati e attaccati dai mandriani camiri. Catreo tentò di spiegare chi egli fosse e d'onde venisse, ma l'abbaiare dei cani coprì la sua voce. Altemene si precipitò fuori dal palazzo per fronteggiare la supposta scorreria e, non riconoscendo il padre, lo uccise con la sua lancia. Quando seppe che la predizione si era così avverata, nonostante il suo lungo esilio, pregò affinché la terra lo inghiottisse. Subito si aprì una voragine dove Altemene sparì, ma ancora oggi gli si tributano onori eroici. Questo mito artificioso, che ricorda l'invasione miceneo-minoica di Rodi nel XV secolo a.C., avrebbe dovuto altresì spiegare perché si versassero libagioni in una voragine in onore di un eroe rodio o si eseguisse una danza erotica nel corso della quale le donne danzavano sulle pelli appena scoiate degli animali sacrificati. La desinenza Birios o Buriash è frequente negli appellativi regali della terza dinastia babilonese fondata nel 1750 a.C. e la divinità di Atabirio in Creta, come quella di Atabirio in Palestina, Monte Tabor, famosa per il culto dell'agnello d'oro, era Littita Tesup, un dio solare proprietario di bestiame. Rodi appartenne dapprima alla dea lunare sumerica Dam-Kina o Danae. Poi passò al culto di Tesup e, con lo sfacelo dell'impero ittita, fu colonizzata da cretesi di lingua greca che rimasero fedeli al culto del toro ma fecero di Atabirio, un figlio di Proteo, primo uomo, e di Eurinome, la creatrice. Nei tempi dorici, Zeus Atabirio usurpò il culto rodio di Tesup. Il mugito dei tori veniva prodotto probabilmente dal roteare dei rombi o trottole per incantesimi che si usavano per tenere lontani gli spiriti maligni. La morte di Apemosine a Camiro si riferisce forse alla brutale soppressione di un collegio di profetesse compiuta a Camiro da invasori ittiti, meglio che cretesi. Le tre figlie di Catreo, come le Danaidi, sono la solita triade lunare. Apemosine è la terza persona e ha la sua controfigura in Camira. Catreo, ucciso incidentalmente ad Altemene, come Laio è ucciso incidentalmente da suo figlio Edipo e Odisseo è ucciso da suo figlio Telegono, fu probabilmente il predecessore e non il padre del sacro re. La storia segue qui uno schema errato. Era il figlio e non il padre che doveva giungere dal mare e scagliare la lancia munita di un pungiglione, fatto di una resca di razza.